Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Educazione sessuale gay. Questo post è dedicato all'educazione sessuale con particolare riguardo all'educazione sessuale dei ragazzi gay. Parto da un'osservazione concreta. Nel parlare quotidianamente di sessualità con ragazzi gay di tutte le età, riscontro sistematicamente i danni provocati da un'educazione sessuale distorta, o meglio sarebbe dire dalla totale assenza di un'educazione sessuale che possa essere degna di questo nome. Ancora oggi, nel XXI secolo ormai inoltrato, i ragazzi hanno della sessualità un concetto legato a tabù di vario tipo. La sessualità è vista non come una realtà ordinaria, vissuta quotidianamente da tutti, ma come una specie di territorio, nello stesso tempo affascinante e proibito, al confine tra il gioco e l'affettività. Un territorio che attira e che nello stesso tempo intimorisce, che promette cose meravigliose ma che può provocare fortissime delusioni. Questa visione della sessualità come realtà che deve restare nascosta perché porta in sé una nota di forte trasgressione, dato che tutto quello che ha a che vedere col piacere sessuale appare intrinsecamente trasgressivo, è ancora profondamente radicata, specialmente tra i ragazzi più giovani, e tende poi piano piano ad affievolirsi con l'aumentare dell'età. È molto più facile parlare seriamente, senza tabù, di sessualità con un ragazzo tra i 35 e i 40 anni che con un ragazzo intorno ai 20, che è ancora profondamente condizionato da modelli comportamentali ed interpretazione di origine esterna. Ci sono ancora oggi parecchi ragazzi ventenni che non hanno un'idea realistica di come gli altri vivono la sessualità e quindi tendono a considerarsi unici e a vedere la propria sessualità come anomala o affetta da qualcosa di patologico, quando di anomalo o di patologico non c'è assolutamente nulla. Aggiungo che ci sono ragazzi ventenni letteralmente terrorizzati dall'idea che qualcosa della loro sessualità possa trasparire ai genitori. In certi ambienti, ancora oggi, i ragazzi gay subiscono delle vere e proprie forme di violenta repressione che li inducono purtroppo a fare scelte che nel tempo si dimostreranno devastanti per la loro vita affettiva e per il loro equilibrio personale. Penso soprattutto al matrimonio. Mi capita di parlare con ragazzi di oltre 20 anni che non hanno mai prima avuto nessuna possibilità di parlare seriamente della loro sessualità. Parlare con questi ragazzi permette di capire la profondità del disagio e la necessità che hanno di essere rassicurati e di poter guardare il futuro con una speranza concreta. Per uscire da certi ambienti e guadagnarsi una vera autonomia ci vuole uno sforzo enorme, e questi ragazzi sono spesso del tutto abbandonati a se stessi e scoraggiati in ogni loro tentativo di emanciparsi e di costruirsi una prospettiva migliore. Molto spesso le famiglie o sono assolutamente incapaci di rendersi conto delle difficoltà dei figli o sono portate a considerare prioritario il fatto che ci si debba adeguare a vivere secondo la tradizione per mantenere una onorabilità almeno di facciata davanti alla gente. In certi ambienti ancora oggi un ragazzo ventenne non può permettersi di non avere una ragazza se non vuole essere sostanzialmente emarginato. Lo stato di sofferenza provocato da queste situazioni è veramente pesante. Qui non solo non c'è un'educazione sessuale alla libertà e alla responsabilità, ma c'è una vera forma di violenza educativa che non propone ma impone, con forme pesantissime di ricatto mascherato, impone modelli coercitivi e di comportamento. A questo atteggiamento impositivo si contrappone quello di completo disinteresse che invece è caratteristico di ambienti che si ritengono più aperti e più liberi. Va sottolineato che per i ragazzi parlare seriamente di sessualità e chiarire i propri dubbi in questa materia è fondamentale e l'assenza di qualsiasi forma di confronto finisce per indurli a cercare il confronto lontano dalla dimensione del quotidiano, negli ambienti che, per l'etichetta gay che portano, appaiono più adatti al confronto in tema di sessualità. Parlo in primo luogo della pornografia, che presenta modelli apparentemente gratificanti e semplici, ma dotati di una forza di persuasione che è ben al di là di quella delle parole. Negli anni passati, la pornografia in internet si presentava con criteri di forte aggressività e in forme molto stereotipate. L'accesso ai siti era in genere a pagamento e la presenza di dial per addebitare all'utente le spese telefoniche, in genere molto alte, era un deterrente che aiutava a tenere la grande maggioranza dei ragazzi fuori da quegli ambienti. Oggi le cose sono cambiate. I siti porno gratuiti sono molti e si finanziano esclusivamente con la pubblicità a tema. E recentemente si stanno diffondendo i blog creati da singoli utenti per raccogliere foto dal web e ripubblicarle. È il fenomeno del reblogging che ha un particolare significato quando si parla di siti erotici. Qui non si parla esplicitamente di pornografia, ma di contenuti attinenti alla sessualità anche in un modo più largo, come per esempio le foto di nudo o le candid camera con qualche interesse sessuale. Il reblogging ha portato alla creazione di siti che ormai della vecchia pornografia pesante, presente su internet anni fa, hanno decisamente ben poco, che sono due siti con buon gusto, alcune volte non hanno finalità commerciali e non c'è da meravigliarsi che abbiano un pubblico in progressivo aumento. Anche questi blog a tema erotico, però, presentano inevitabilmente dei modelli di comportamento. La pornografia e oggi anche il reblogging di contenuti erotici costituiscono per parecchi ragazzi il modello sessuale di riferimento, in qualche modo la vera educazione sessuale. Va tenuto presente che l'approccio dei ragazzi con la pornografia è molto precoce e che in genere il primo contatto avviene tra i 13 e i 14 anni, quindi in un'età estremamente ricettiva rispetto ai contenuti attinenti alla sessualità. L'uso della pornografia è strettamente connesso con la masturbazione ed è al massimo argomento di discussione fra coetanei, ma questo accade soprattutto tra i ragazzi etero, per i quali parlare di queste cose con i loro amici è comunque possibile e non rischioso. Per i ragazzi gay è invece facile rendersi conto dai discorsi degli altri ragazzi che la sessualità di quei ragazzi è un'altra, ed è facile purtroppo dedurne l'errata conclusione che nella propria sessualità c'è qualcosa di sbagliato. I ragazzi etero arrivano a parlare tra loro della sessualità, della pornografia e della masturbazione, e questo consente loro di rendersi conto del loro essere come gli altri. Per un ragazzo etero, i messaggi provenienti dalla pornografia sono filtrati attraverso i discorsi dei loro amici ed hanno una valenza meno importante che per i ragazzi gay, che su quegli argomenti non hanno una possibilità di confronto interpersonale. Aggiungo che i primi rapporti sessuali dei ragazzi etero sono in genere notevolmente più anticipati dei primi rapporti dei ragazzi gay e si presentano come una specie di patente da adulto. Per i ragazzi gay invece la masturbazione sulla base della pornografia sostituisce la sessualità vissuta con persone reali per periodi molto lunghi e finisce per consolidare i modelli offerti dalla pornografia. C'è poi un altro elemento che gioca nettamente a sfavore dei ragazzi gay. Un ragazzo etero può ammettere anche in famiglia di avere una simpatia per una ragazza e può vederla anche a casa sua, alla presenza dei genitori, che in genere vedono la cosa con occhio benevolo, purché non si vada troppo oltre, almeno in modo visibile. I genitori sanno bene, anche se fingono di non saperlo, che i figli e le figlie hanno una loro vita sessuale anche se giovanissimi, ma danno tutto questo per ovvio e per scontato, in sostanza non se ne meravigliano affatto. Per un ragazzo gay invece la sessualità è fin dall'origine qualcosa da nascondere, da tenere in una dimensione privatissima di assoluta invisibilità, relegata a momenti in cui nessuno può intervenire. un ragazzo gay, le opportunità di parlare seriamente di sessualità gay sono molto ristrette, almeno durante la prima adolescenza. Poi, anche attraverso internet, si arriva talvolta pericolosamente a situazioni in cui è possibile parlare anche di sessualità gay, ma spesso i contesti sono i meno appropriati e sono quelli legati alle chat erotiche e ai siti di incontri in cui i discorsi sono finalizzati quasi esclusivamente agli incontri e le possibilità vere di confronto serio sono decisamente minime. L'educazione sessuale dei ragazzi gay presenta un'enorme complicazione che consiste nel fatto che purtroppo non esiste di fatto una società matura capace di integrare l'omosessualità. In questo senso un'educazione a comportamenti liberi, che sarebbe in assoluto la più desiderabile, finirebbe per essere dannosa per lo stesso ragazzo e lo metterebbe seriamente a rischio in ambienti in cui l'omofobia è ancora profondamente radicata. I discorsi sulla sessualità servono certamente a creare un confronto, ma anche e soprattutto a fare diminuire l'ansia e ad evitare l'idea che la sessualità, soprattutto la sessualità gay, debba essere vissuta attraverso una specie di successione di tappe obbligate. Parlare serve a sdrammatizzare, a togliersi dalla mente l'idea di avere un problema, di essere un po' anomalo, di dovere per forza trovare una spiegazione a tutto, di dover interpretare qualsiasi pensiero che ci passi per la mente per scoprirne i risvolti più riposti. Parlare di sessualità serve a ridimensionare e a riportare le cose in prospettive meno emotivamente condizionate, a capire che la sessualità è una cosa complessa e che ciascuno ha i suoi tempi, i suoi ritmi, anche i suoi condizionamenti che vanno accettati per quello che sono. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.